Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows, night shows in summertime. Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band and feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire al nostro ospite, Ruben. 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. E le nuove frequenze 91.5 per la zona lago e 94.7 per la Valpolicella. Radio RCS si ascolta anche in web streaming dal sito www.radiorcs.it. Apriamo la seconda parte dedicata al folk inglese con Nick Drake, che dal disco Five Leaves Left ci ha fatto ascoltare la canzone Riverman. Artista molto particolare, rivalutato come tanti artisti decenni dopo, che ci ha lasciato pochi ma significativi dischi. Un tuo commento su Nick e la sua musica? Beh, Nick Drake è un mondo, riassumerlo in due parole è quanto mai difficile. Dicevamo prima fuori microfono che in lui c'è questa ricerca musicale molto intensa, che lui viveva con questo rapporto probabilmente molto stretto che aveva con la chitarra, e senz'altro è da rivalutare proprio questo suo percorso musicale che poi si è estrinsecato nei suoi dischi. Dicevamo, è il caso di ricordare Nick per la sua musica, per i suoi testi, e magari dimenticarci, o se non proprio dimenticarci, lasciare un po' di lato quelli che sono i suoi aspetti personali, che poi alla fine sono quelli che poi quando si parla di Drake si finisce a parlare di più, ecco. Certo. Però la musica è l'aspetto senz'altro più interessante di questo ragazzo. Ruben non è solo cantautore solista, ma collabori anche con altri organizzando assieme a loro alcuni eventi particolari. Come nasce questa idea di unire vari artisti e come sono andate queste tue iniziative in questi anni? Beh, c'è un aneddoto che potrei raccontare. Una sera, andando in macchina per radio, avevo sentito un'intervista a Teresa De Sio dove la cantante diceva, insomma, oggi un nome grosso, sì, ma aveva detto una cosa che mi aveva colpito molto, e cioè diceva: oggi un artista non è soltanto chi canta, chi scrive le sue canzoni, ma anche chi organizza possibilità, eventi in cui possono esprimersi anche gli altri, certo, artisti. E questa sua affermazione mi ha colpito molto, anche perché non avevo mai vissuto l'aspetto musicale da questo punto di vista. E allora ho cominciato anch'io ad organizzare degli eventi. Ricordo il primo, il Verona Aid, che poi, diciamo, ha dato un po' il là a tutte le cose che ho fatto successivamente. Continuiamo immergendoci sempre di più nel folk inglese con i Pentangle, la band guidata da Bertie Ansh e John Ramborn, dal disco Sweet Child del 1969, con la canzone The Trees They Do Grow High, che fu anche tradotta in una versione italiana da Angelo Branduardi. Una band che ha dimostrato che si può fare buona musica suonando completamente o quasi in acustico. Cosa ne pensi? Che la dimensione acustica è una dimensione meravigliosa, anche perché lì abbiamo il suono naturale degli strumenti. probabilmente il suono acustico è quello che è più vicino alla nostra anima. Nel momento in cui si passa dall'acustico all'elettrico, l'elettrico è sempre una mediazione tecnica, però sono affascinanti entrambi, anzi combinarli è sempre una bella soluzione. Il rogo della Vespa è il titolo del nuovo disco. Qual è il significato che sta dietro questa frase? Mi rendo conto che questa cosa suscita un po' la curiosità di tutti. Poi non è che io ho voluto fare un disco con un titolo curioso per attirare l'attenzione, è che è nato proprio per un episodio particolare. Una sera d'estate ho visto che c'era un nido di vespe che doveva andare bruciato per una serie di motivi anche di sicurezza, e guardando proprio il nido che bruciava, ci tengo a precisare, non vorrei magari che qualche amico animalista pensasse che si dava fuoco alle vespe per il gusto di dare fuoco. No, le vespe non c'erano nel nido. Beh, insomma, poi dai, io ho sintetizzato il titolo nel rogo della vespa, però ecco, nessuna vespa è stata bruciata, ecco, questo lo dico per tranquillizzare tutti. Però ecco, questa immagine, queste fiamme, poi era il tramonto, questo momento della giornata un po' particolare, momento poetico, di ecco, fine giornata, e anche il rogo mi ricordava un po' l'idea della fine. E insomma, strano a dirsi, questo momento così particolare mi ha ispirato il primo brano del disco, e da lì poi sono partito a comporre tutte le altre canzoni. Chiudiamo la seconda parte con i Fotheringay, band durata allo spazio di un solo disco e formata da Sandy Denny, fuoriuscita dai Fairport Convention alla fine del 1969, e dal marito australiano Trevor Lucas, e li riascoltiamo dal disco Fotheringay del 1970 con una rivisitazione di un brano di Bob Dylan dal titolo Too Much of Nothing. Dopo la pubblicità sarà la volta di ascoltare sei canzoni tratte dal nuovo disco di Ruben, Il Rogo della Vespa. Stay tuned! Not